Buonasera. Bertolt Brecht è un grande drammaturgo, forse il più rappresentativo e rivoluzionario di tutto il teatro moderno. È l'autore di Madre Coraggio e dell'Opera da Tre Soldi. È anche uno squisito poeta e la sua poesia ha l'andamento malinconico di una ballata d'amore. Vi leggerò ora Ricordo di Maria. Un giorno di settembre, il mese blu, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto fra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo, bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte e molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini sono ormai abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo, anche il suo volto più non lo rammento. Questo rammento, l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato, senza la nube apparsa su nel cielo. Questa rammento e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna ha forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento. Sparì per lui la nuvola, per me è sparito il tempo. Signori, cedo la parola a Barilla. È Barilla che offre a tutte le mamme la nuova pastina glutinata integrata con germe di grano. L'alimento sicuro per tutti i bambini e per tutte le età della vita. Siamo bimbi sani, sapete perché? La mamma che è trovata ci dà la nuova pasta Barilla che è pastina glutinata. Ed ecco per 140 lire la nuova confezione dei nidi d'angelo glutinati. Barilla, è questa la pastina glutinata per tutti. Oddio, eccoci. Quando meno ve l'aspettate. È così, perché la Brusca oggi per la prima volta è in ritardo. È in ritardo, ma per un fantastico motivo. Sicuramente siete rimasti con noi da col Wombat. Super Wombat pomeriggio, perché è successa una cosa bellissima. Uno scontro scontro fra titani, un po' come, che ne so, Andrea e Giuliano incontrano Alice per caso. È successo, ebbene sì, è successo che in passato la regia facesse dei qui pro quo con la bobina e si sovrapponessero dei pezzi di repliche o di bobina, è successo che non andasse niente in onda, è successo di tutto fino ad oggi, ma questo ancora doveva succedere, la sovrapposizione di 2 trasmissioni in diretta, è stato bellissimo. E quindi si è trasformata in un urlo di pedali. Per favore, vi prego, chi non era connesso... In punta di Balcani, l'urlo dei pedali o in punta di Balcani. Esatto, chi non è stato connesso con noi fino a poco fa, vi prego, ascoltate la replica di questa fantastica trasmissione che a questo punto non sapremo dove trovare, però se volessimo anche solo scaricare il podcast, quindi guardate la home del sito. Secondo me doppio podcast, a questo punto ci sta. Doppia replica, stessa trasmissione per 2 trasmissioni diverse. Grazie. Quindi ottima collaborazione fra 2 trasmissioni che apparentemente potevano non incastrarci una pippa e invece non è nata solo. Anche una gran collaborazione e un bel viaggio. È un viaggio nei Balcani in bicicletta. Stupendo. Emuli delle esperienze di contro Dario. È chiaro. Possiamo citare. Esatto. Citiamo noi stessi. Però noi diamo un ulteriore contributo alla giornata del Wombat con questa fantastica pubblicità datata 1959, dove un ignaro Giorgio Albertazzi ha recitato una meravigliosa poesia di Susini, come diceva lui, Susini, e la Barilla ci ha spiegato le origini e la causa, molto probabilmente, della celiachia con la pastina glutinata. Hai capito? Che quando hanno iniziato a vendere le farine strapiene di glutine, perché il consorzio deve guadagnare di più, pensa. E una volta erano consorzi, ora... Vabbè. Polemiche a parte. Ah, veramente, reti unificate... Io senti, ti avviso, dopo chiaramente dallo spot potremmo trarre delle deduzioni di che cosa parleremo oggi. Nina, raccontaci un po'. Allora, oggi è una puntata altamente scolastica, non a livello filosofico, anche se ci sarà qualche sprazzo e sprizzo di filosofia, soprattutto i cinici, come voi ben sapete, ma parleremo di scuola, di esami, di letteratura, di prova di italiano e ovviamente, sentite il rumore, la Sabrina Carollo in tutte le sue pagine è qui con noi anche stasera per parlare di alcune frasi celebri e di alcuni modi di dire che derivano dalla letteratura, più o meno, o dal greco e dal latino. Facciamo una gran bella figura. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Facciamo... Ora, io non sono così sicura, però non è colpa nostra, non siamo noi a non fare bella figura. È il Miur che, come al solito, ha fatto un buco nell'acqua. E non so se avete sentito, maturità 2019 ovviamente le materie più bistrattate, da come una tradizione italiana, quella di bistrattare le materie letterarie in particolar modo. Nella maturità 2019 ci sono le simulazioni online del MIUR per la prima prova. Tutte le tipologie dei temi, diciamo, di italiano, no? Però in questo contesto, quindi di agevolazione, no, per gli studenti, c'è stata una fantastica gaffe, proprio un capitombolo carpiato, cascando nella cacca. Può succedere ai ragazzi, perché ancora sono in fase di formazione. Però se pretendiamo tanto da loro, cosa che realmente si fa, perché secondo me alcune pretese, soprattutto guardando quello che è l'ambito della maturità, secondo me ci sono dei livelli, cioè si richiedono dei livelli spesso troppo alti rispetto a quella che è poi la formazione quinquennale o che sia, insomma, scolastica. E quindi se pretendiamo da loro, poveri, dovremmo stare un po' più attenti. Noi adulti. Loro adulti. Loro adulti, giusto. Adulti lo vai a dire a qualcun altro. Noi non siamo adulte. Siamo adultere. Adultere? No. No. Chissà. Cri, cri. Allora, la commissione scientifica del MIUR ha fatto l'ennesima polpetta. La nuova gaffe è ovviamente legata alla traccia su una delle poesie di Eugenio Montale, e ovviamente questa cosa ha fatto il giro perlomeno delle redazioni web, non so se anche sulla carta l'abbiano detto. Nell'analisi di L'agave sullo scoglio, poesia presente nella raccolta Ossi di seppia, c'è una nota a piedi pagina che traduce l'aggettivo rabido o rabido. Poi vi spiego perché non abbiamo discriminato così tanto la pronuncia, non come rabbioso, bensì come rapido, rabido. Quindi la nuova gaffe è arrivata a un paio di, non ci posso credere, a un paio di mesi di distanza, quando il ministro dell'istruzione, che non so se voi lo sapete, io non lo sapevo, ma si chiama Marco Bussetti, aveva sbagliato l'attribuzione della paternità della tavola periodica, quindi non è vero che è tutto così bistrattato nel mondo letterario. E nel 2017, quando invece era in carica il precedente di Castero, è comparso un tracie che aveva fatto rabbrividire parecchi tracie. E vabbè, che dire, noi in questa puntata sicuramente ci accingiamo alla fine del libro della Carollo, quindi abbiamo pensato di fare un po' un excursus generale, partendo però da un'utilità, che è quella di dare un po' una mano a chi sta preparando la prova in particolar modo di italiano, no? Perché il Miura ha deciso di puntare ovviamente sul classico, con qualche novità magari. Però insomma ci sono sempre questi cosiddetti sempreverdi della letteratura novecentesca, quindi Pirandello e Montale, no? E si affronterà probabilmente il tema del fumo Mattia Pascal, almeno in queste prove, in queste simulazioni, e soprattutto anche le poesie di Ossi di Seppia, che sono uscite anche nel 2005, quando mi sono diplomata io. E la nostra professoressa di italiano non aveva fatto nel programma Montale. È chiaro, è sempre e io così. Ho fatto lo stesso il tema. Grande. Nonostante lei mi dice, ti prego non farlo. io non mi prendo nessuna responsabilità. Sono uscita con 97. Buono. Se potevo metterla in difficoltà, non sarei fatta dire due volte. Quindi, prima di parlare un pochettino delle, diciamo, modalità con cui e tramite cui affrontare al meglio una prova scritta di italiano, che sono poi in realtà regole che equivalgono, scusatemi, che valgono per tutta la vita, per qualsiasi produzione scritta ci troveremo a dover elaborare nel corso dell'esistenza, direi di far sentire qualcosa a piacimento della nostra Nenia. Leggiamo Cesare. Non ha messo un mazziale. Leggiamo, voglio vedere bella la lettura. Ergo Marius, Positorium se Iudium se Secondo Cursus et Factus et Dunque e Conte Cimbes Degredones. Ma che stai facendo? Tedio Quote, i Quote Indigradus Grande Sede Consula. Perché parliamo piano? Perché? Perché? Se può scegliere, se e cimbiu se apoli a Cesare anale. Senti Lorenzo, scusa, che cosa no scusa c'è poco, che cosa vuoi dire con questa pantomima, che cos'è? Vuoi dire che, vuoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non, che cosa è messa la lingua morta, manda a abitare, passa a disturbare. Non è lingua morta il latino. Vabbè, sancoma. Sancoma, morta, sa che giusto. Il latino non è una lingua morta. Ma chi te l'ha detto? Ma che... passa sul giornale, mi pare de macchina, dai. Ma che devo chiamare scientifica? È morta, sa fa messa. Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa. Il latino non è una lingua morta. Il latino è utile. Sapere il latino, sapere l'italiano. Se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e queste cose. E devi mettertelo in testa. Perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'era un esempio di discorso indiretto, che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lui sa le cose, lui è bravo. Perché dentro. Perché hai scelto Marziali? Perché non ho scelto Marziale? E con Marziale ci scaglia, facciamo un esempio anche a casa, questo è un corso didattico di discorso indiretto che serve. Devo fare con te? Certo. Lo faccio un discorso indietro? Sì. Ah, sì, se ti capita di comprare un motorino woofer, modo di idea. Questo è l'esempio. E vuole accusativo, dire. Ah, sono per me, per te siamo. Fanno un esempio di accusativo. Acciali, fracci del merda, tu! Acciali! Tu, sei acciali! Non andiamo! Mi fai anche allora un esempio, scusami, visto che sei così, no? Di ablativo. Ma basta lo stibite, ci ha fatto appetito, ancora questa è ablativa. Ma sono vecchia. Scusa, no, perché tu ancora, no, sei ancora convinto. Ancora sono lui, fammi capire. Sei convinto. Ci vuole mettere la barba, fai. Che i Beatles sono del tempo sono dei... Sono sbagnalizzati. Sì. Perché i Beatles sono del tempo dei romani. In che anno, Lorenzo? Vabbè, mo' date da tournée, ma mi ricordo, se 25 Milano, 27 Torino, sai? Magari era super manager di Cesare. Erano in tournée promozionale, no? Certo. Tu radio, bravo. Ecco, più chiuso. Abladì oblada. Perché tu pensavi che io avessi finito con questa dipendenza da Guzzanti, no, vero? No, no, ma io lo non so. Non ci avevi creduto? Non finirà, e più che altro ci sono talmente tante risorse che è impossibile guarire. Ci casti per forza. È impossibile, davvero. Però mi fa sempre molto piacere sentirlo e chissà che questa sera non ripiombi nella nostra trasmissione di nuovo, come chissà. Un fulmine a ciel sereno. Sì. Però io a questo punto ti farei ascoltare un pezzo che voglio dedicare a quello che è successo a Prato, sì, domenica, perché dopo la prima figura di merda del New York abbiamo anche la figura di merda della politica. Piazza fascista a Prato per i loro numeri che erano veramente ridicoli, quindi della serie fatela anche finita. Ridicolo anche poi che sia potuto accadere tutto ciò. Sì. Quindi diciamo che mettiamo tutto nel gran calderone delle figure di merda, ognuno si accoglie le sue, ok? Esatto, il mio urlo è suo, i fasci la loro. Poi non aggiungeremo altro perché stampa rassegnata del 24 marzo ha fatto una stupenda trasmissione molto dettagliata che racconta tutto, nonché la diretta che è stata fatta su Radio Womat domenica pomeriggio, quindi non abbiamo niente da aggiungere, però... Io ormai l'avevo messo lo stesso, questo pezzo, nella nostra scaletta e in realtà poi ho scoperto di averlo duplicato da stampa rassegnata, quindi cito anche la trasmissione, di modo ottimo, che insomma si faccia un buon aggancio. E beh, lo mando, perché comunque è un pezzo che secondo me va sempre storico, sentito. Si diceva per l'appunto col conduttore di stampa rassegnata che dovrebbe comparire in ogni radio almeno una volta a settimana. È alla faccia del decreto legislativo che voleva lasciare dei tre pezzi, esatto, un pezzo italiano ogni tre stranieri. Quindi almeno una volta a settimana, questa settimana saranno due, se riascolterete i podcast duplichiamo questo numero all'infinito e ci piace perché il pezzo merita. A dopo. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. movimento di milioni ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete guardate il capobanda, è un boia, un assassino colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Ecco. Fausto Modei, se ecco. Non li conoscete o se non li, ora li riconoscete. Se non li conoscete, il titolo. Sì. Parapara papapero. Parapero papapero. Bene, mi fa piacere questa doppia trasmissione, nel senso proprio tecnico della canzone, quasi spontanea, non voluta. Sì. E ci sta tutta e per i bei pezzi si può fare, sì, ecco, per i bei pezzi, quelli che hanno un senso si può fare, per il nostro repertorio quello general generico anche no. Però ci sono le occasioni per tutto e sì, in questo infatti caso, infatti ovviamente la serata seppur breve, la nostra serata insieme sarà allietata da altra musica a tema. Sì, sì, tutto a tema di maturità. A tema. Allora, io ci terrei a leggervi un piccolo estratto di veramente la Torah dei libri di redazione, che è il, tra virgolette, molte virgolette, nuovo manuale di stile di Roberto Lesina. Le virgolette per il nuovo o per lo stile? Per il nuovo e anche per lo stile, okay. Ma anche per il cognome Lesina. Ecco, infatti ci il sta. Lesina o Lesina non ho mai capito, io spero sia Lesina. Mi affogo. E praticamente questo libro è stato edito per la prima volta nel 1987-89. Ci sono ora ulteriori riedizioni toccate veramente in pochissime parti. Il libro è toccato veramente in poche parti, per cui è un classico della redazione, in particolar modo per l'editoria. Però ci sono degli stralci molto carini che secondo me valgono davvero per qualsiasi tipo di produzione scritta. E la realizzazione di un testo è il tema del primo capitolo. Ci parla sempre Lesina o Lesina di una logica generale di attività, quindi con le varie fasi di attività. Sono fasi che hanno una competenza dell'autore e la competenza dell'editore. Ovviamente noi ci soffermiamo su quelle dell'autore, a meno che questi ragazzi non abbiano la velleità di farsi pubblicare il tema o di autopubblicarlo. E, tralasciando la modalità di lavoro, sicuramente poi è importante parlare della stesura dei criteri di stesura di un tema o di un qualsiasi tipo di produzione scritta. E soprattutto molto carina è la parte sulle indicazioni di stesura. Fino a l'indicazione che il criterio generale, quindi il titolo, ci dà. Partiamo un po', tanto saremo molto brevi. Allora, la logica generale di attività riguarda la realizzazione di un testo scritto e comporta un insieme di attività che sono legate agli aspetti di carattere concettuale, ma anche redazionale, lasciando stare ovviamente quelle editoriali. Le fasi sono diverse. Abbiamo un'analisi preliminare, quindi le fasi in cui definiamo le caratteristiche fondamentali del testo. Noi leggiamo un titolo, una traccia che ci viene data e decidiamo attraverso questa analisi di definire le caratteristiche che vogliamo dare a questo testo. Per esempio, se un tema è di critica, tra virgolette, testuale, oppure un tema argomentativo, ovviamente faremo un'analisi differente. Poi abbiamo l'impostazione, quindi la fase in cui si definisce il contenuto, quindi cosa vogliamo scrivere, e la struttura del testo, come lo vogliamo scrivere. Infine, la stesura, ovvero la fase in cui si produce una prima versione compiuta del testo, e molto importante, la revisione. Ai tempi succedeva che si scrivesse su un brogliaccio e poi si rifacesse la nuova versione su il famoso foglio protocollo originale timbrato dal professore in bella. È un'azione un po' leziosa, però effettivamente è sempre stata molto importante, perché la rilettura ti dava modo di capire se effettivamente avevi centrato l'argomento o meno. E lasciando ovviamente stare la fase di composizione di stampa, perché la composizione riguarda l'impaginazione del testo, quindi la sua veste grafica, e la stampa, ovviamente, la stampa su carta. Quindi noi siamo nel campo del manoscritto, no? O eventualmente lo chiamerebbe anche dattilo scritto, se il tema viene scritto con un computer, con una macchina da scrivere, che ne so. E la competenza dell'autore, quindi di chi scrive, sta proprio in questi quattro, diciamo, punti. Quindi l'analisi del tema, l'impostazione, la sua stesura e la revisione. Sono quattro fasi che ci permettono magari anche di suddividere il tempo quando ci troviamo a scrivere qualcosa in maniera esatta. Abbiamo 3 ore. Bene, sappiamo che in queste 3 ore dobbiamo fare 4 tipi di attività diverse. Quindi, facendo un calcolo matematico, avremo circa una 40 di minuti per azione, più o meno. Non sono brava in matematica. Definizione delle caratteristiche del testo. Anche questa è una cosa importantissima. Quindi il primo obiettivo dell'analisi preliminare, il primo punto, è stabilire le caratteristiche fondamentali che il testo dovrà avere, il suo tema e la sua destinazione. Rimaniamo focalizzati al momento sul tema, perché la destinazione è probabilmente gli occhi e la testa di un professore, a volte anche abbastanza ottuso. Per cui, di che cosa parlare? Quindi, quale deve essere il tema del testo? Se io leggo una traccia, è ovvio che il tema sarà sempre soltanto quello, e quindi quello più attinente e aderente alla traccia. Con cosa intendo farlo? Quindi, qual è lo scopo di questo testo? Ovviamente cercare di non farsi bocciare. A chi rivolgersi? Quindi, a chi viene destinato il testo? Alla lettura del professore. Non dovrebbe essere così, ma stiamo parlando di una finalità di esaminazione, e quindi probabilmente sì, insomma, il professore leggerà, e forse un commissario di come si chiamano i millenni? Non mi ricordo più. Il commissario, sì. Commissari. Presidenti e commissari. Presidentissimo. Di commissione. Quindi le attività che riguardano il che cosa parlare si raggruppano poi in quello che viene chiamato impostazione, no? Definiamo e organizziamo il contenuto del testo, raccogliamo e classifichiamo le informazioni e poi definiamo delle convenzioni che ci diamo noi per seguire nella stesura, no? E soprattutto per quanto riguarda poi la definizione e l'organizzazione del contenuto, quindi abbiamo fatto la nostra analisi preliminare, ora possiamo procedere alla definizione di quello che è il nostro testo, no? La prima cura, dice Lesina, che deve avere un autore è quella di non tralasciare informazioni indispensabili, poiché ciò equivarrebbe a non raggiungere lo scopo informativo desiderato. Tuttavia, Anche dare più informazioni del necessario può non essere opportuno, poiché in questo modo si costringe il lettore ad assimilare inutilmente nozioni superflue. In generale, la definizione del contenuto può iniziare con la semplice compilazione di un elenco di argomenti, ma già dopo i primissimi stadi sarà necessario organizzare un contenuto di secondo tipo, secondo un certo schema di struttura descrittiva. Quindi facciamo una lista di argomenti e capiamo come descrivere ciascuno di questi argomenti. Possiamo articolare, quindi esprimere il contenuto in forma di argomenti distinti, per poi correlarli. Quindi identificare una serie di argomenti che corrispondono a una scomposizione logica del tema complessivo, che poi verranno ricuciti insieme su diversi livelli di articolazione. E ordinare significa disporre in sequenza i singoli argomenti secondo una determinata logica di successione, generalmente a un'introduzione, uno sviluppo del tema e una conclusione. Poi ci sono anche dei sottoinsiemi e anche, volendo, delle tipologie differenti di realizzazione di questo testo. Una parte più descrittiva, una parte per elenco puntato, una parte più critica, una parte invece anche personale. E che dire di altro? Facciamo un attimo un salto più avanti. No, vuoi fare una pausa intanto? E ma no, guarda, esaurirei il tema, se trovo quello che volevo dire. Ma sicuramente lo troverai. Io intanto... Eccolo. Ah, ok, vai, perfetto. Sì. Nulla, formato del testo, titolo, paragrafo, lista e eventualmente il contenuto, no? Eventualmente. E poi utilizziamo i modelli specifici per parlare, quindi per parlare dell'argomento, quindi possiamo utilizzare dei modelli che sono definiti per ordine temporale, per ordine spaziale anche. Se non ci troviamo in difficoltà perché abbiamo scelto appunto il tema su Montale, possiamo iniziare parlando magari di Montale in una sequenza temporale, oppure anche in una sequenza spaziale, non sarebbe male, perché Montale ha viaggiato molto, se conoscete l'autore, Ossi di Seppia è molto diverso rispetto, non so, agli ultimi componimenti magari dedicati alla moglie Mosca. Per cui già questo è un ottimo suggerimento che mi sento di darvi. Ecco, ecco, cari miei maturandi, sarete o no maturi. Siete meglio del MIUR, lo sapete, vero? Sicuramente. Bene, io volevo precisare che ho sbagliato data prima, il corteo è stato il 23, non il 24 marzo, quindi il 23 marzo, sabato, non domenica, e a proposito rimando anche a un'altra trasmissione, quella di Fuoco alle Polveri, di lunedì 25, nonché al podcast completo con tutta la diretta che abbiamo fatto noi di Radio Wombat sabato pomeriggio, e la trovate nel sito, nella home e nelle informazioni. Detto ciò, a questo punto vi farò ascoltare un po' di musica, perché abbiamo parlato fin troppo e quindi ci vuole la pausa. Vi faremo ascoltare qualcosa. Questo è Antiquariato Puro, un pezzo del 97, nella fanfila stroca, uno scioglilingua. Fateci anche voi, yeah, yeah. La del primordio non ammette classi, è il soggetto prevalente nella critica prassi. Io mi innalzerei immolando te, bitch. Il cerbero padre dell'ade, degenerò figli senza vergogna. Per i patetica corte pose la morte sulle sue insegne. Crebbe forzuto negli anni forzando recidi di Foggia Ateniese. Quando distrusse tabù che sono state pigliando consigli che cratete intese. Le pubbliche pedi lui cari fornendo riparo e tottoio coscienze. Patetico regno dei morti vorrebbe posticcio ponendo parvenze. E tempo ricuse che accusa prefigge difficile se perde monate. Sono i mercati che ingrassano a botte, i loro più grossi porcelli da latte. Li tende pagani con te di gaudete di poti di franchigie. Sopra non anni svevettivati ori cellogi delle calipigie. Tutti però fomentatori la vita e la morte non furono più cruccio. Strutture cresciute a feticcio, cresciute per forza d'impiccio. Metà che diede mai noi a usare mannaia sul pelle via pano. Sa chi cade oggetti e gioielli l'imposto sovrano che perde il suo trono. Bastati schianiti e puniti da chi più ramiti già morti nel senso. Pragmatico al dare prepara già mare sfruttando ragioni fuggite di censo. I servi cantavano strofe sagaci, le storie salaci con opere intracci. L'ingrata Aristotele merito feci rendendo felici più cinici greci. So che il piacere tradisce promesse, la storia che disfaccio che il mondo tesse. Ma si rompe se chi disse corresse, che pensa pagasse che appena potesse. Pura cresce dentro l'istinto, il sentiero va da Atene a Corinto. I pastori non mi urbo, la saliva del demiurgo, lavo e curvo nel cinismo convinto. anacorito retorico topica la cera critica d'anomalia, barbellognostica mia, giocaste la sua fantasia, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica impura, cannibalismo sottura, nostra cultura, la natura del primordio non ammette classi, è soggetto prebellento nella critica prassi, io mi innalzerei immolando te, sono logiche che indiogene boom boom. La natura del primordio non ammette classi, è soggetto crebellento nella critica prassi, io mi innalzerei immolando te, sulle logiche che indiogene boom boom boom. Questo è antiquariato puro, un pezzo del 97, è la fanfila stroca, uno scioglilingua. Provateci anche voi, yeah, yeah. La natura del primordio non ammette classi, è il soggetto crebbe lento nella critica prassi, io mi innalzerei immolando te. Arbitre, allo smoke. Il cervello padre dell'A degenerò figli senza vergogna, per ipatetica corte pose la morte sulle sue insegne, crebbe forzuto negli anni forzando reciti di foggia ateniese, quando distrusse tabù che sono state pigliando consigli che cratete intese, le pubbliche feti lui cari fornendo riparo e tettoio coscienze, patetico regno dei morti vorrebbe posticcio ponendo parfenze, e tempo ricuse che accusa prefigge edifici se per demonate, sono i mercati che ingrassano a botte, i loro più grossi porcelli da latte, ritenne pagani con te di gaudete di tipo tipoti di franchigie, soffre non anni svevettivati orice logi delle calipigie, tutti però fomentatori la vita e la morte non furono più cruccio, strutture cresciute feticcio, cresciute per forza d'impiccio, metà che diede mai noi accusare mannaia sul pelle via pano, sacchi da d'oggetti e gioielli l'imposto sovrano che perde il suo trono, a stati schieniti puniti da chi più ramiti già morti nel senso, pragmatico andare prepara già mare sfruttando ragioni fuggite di censo, i servi cantavano stoppe sagaci, le storie salaci con opere intracci, l'ingrata Aristotele merito feci vendendo felici più cinici creici, io so che il piacere tradisce promesse, la storia che disfaccio che il mondo tesse, si ropedisse chi disse corresse che fesse pagasse che appena potesse, la natura cresce dentro l'istinto, il sentiero va da Atene a Corinto, i pastori non ne urbo la saliva del demiurgo, lavo e purgo nel cinismo convento. Anacorito retorico topica la cera critica d'anomalia, barbellognostica mia, giocaste la sua fantasia, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica, emancipaletica lotica ludica pedica latica pratica impura, cannibalismo sottura, nostra cultura, la natura del primordio non ammette classi, è soggetto crebellento nella critica prassi, io mi innalzerei immolando te, sulle logiche che indiogene boom boom boom. La natura del primordio non ammette classi, è soggetto crebellento nella critica prassi. Ma guarda che pezzo colto. Davvero? Che ti ho trovato. No. Murubutu. Mitico. Sì, sì, notevole, notevole. Piacevole, sempre piacevole da ascoltare. Chissà quando tornerà a Firenze, ci domandavamo. Chiamiamolo. Chiamiamolo in radio, che meraviglia. Sì. Sì, sì, sì, sì. Un mese di puntate con Murubutu. Solo con lui. Però, ahimè, stasera vi puppate la Nenia e la Nina. Sono le 20:51 perché ci ascolta in diretta. Saranno Murubrutte. Murubrutte. Noi siamo le Murubrutte. Murubrutte. Murubrutte. Sì, sì. E chissà se mai in questa traccia dovesse capitare Dante. Sicuramente sarebbe il tema dei sogni dei di sogni. Tutti, perché il vero che veramente studi veramente Dante. Davvero, io mi ricordo di aver fatto forse un anno e mezzo per fare tutto. Se sei una persona che studia, esci dal liceo sapendo Dante, perché lo fai. Non so i numeri razionali, ma so Dante. Sì, esatto. E quindi se capita lui mentre Montale in due ore a fine maggio il te caldo, la cavi così e poi ci devi fare la fiera di maturità, sì. Vabbè. Pirandello. Poveri giovani. Se vi capita Dante, però non so come venga fatto oggigiorno, ma c'è da star freschi. E qui la nostra Sabrina Carollo ci dice non che le sfugge sì, niente. C'è da star freschi. Significa non illudersi che possa succedere qualcosa che si spera, ma soprattutto si intima chi ha combinato qualcosa di male che presto sarà punito. Deriva infatti con tutta probabilità dalla Divina Commedia. Dante, morto nel 1321, nato nel 1265, ha immaginato il cocito, la parte più profonda dell'inferno, come completamente gelato, dove i peccatori appunto staranno freschi. E dai, vi diciamo l'ultima, così se volete stupire i vostri professori. Non ragionar di lor, ma guarda e passa, famosissima, no? Il modo di dire è utilizzato quando si vuole esprimere disprezzo, mancata considerazione nei confronti di qualcuno che si sta comportando male, oppure quando si vuole suggerire di non dare importanza a maldicenze e o consigli sgraditi. La frase è dantesca, ovviamente. Siamo nel terzo canto dell'Inferno. Dante passa davanti agli ignavi, accompagnato da Virgilio, che gli suggerisce appunto di non curarsi di quelle persone, ma di proseguire nel cammino. La frase viene poi riutilizzata in altre occasioni, sempre nella commedia, anche se con sfumature differenti nella composizione della frase. Chiudiamo il libro. Ciao. Allora, 1 minuto e 12 secondi devi ascoltare. Poi ritorniamo a darvi le ultime indicazioni. Lo farò. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a fondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Non potevo non fartela ascoltare, sono rimasta nel periodo. Sì, periodo. Così breve che meritava proprio un... Non so, rifarsi una. Chi era l'angelicata del cecco? Dell'angioliere? Chi era l'angelicata? Insomma, ero io? Eri tu? Non lo sapevi? No, non te l'aveva mai detto. Quindi eri la giovane leggiadra. Ma certo, sono giovane, ma soprattutto sono leggiadra. Che problema c'è? Hai lo forse diceva qualcosa lui, in lo diceva lui. L'ha detto lui. Le vecchie laide le lascia agli altri. Scusa, eh? Invece. Quindi abbiamo. Con chi credi di avere a che fare? Madama Nenia. Chiaro. Allora, 5 minuti per la sorella. Soprattutto Madama. Ma che dama! E che dama, signore! Quindi, 4 minuti alla fine, sito wombat.noblogs.org, ma già lo conoscerete di sicuro perché se ci state ascoltando o siete in AM all'1359 oppure siete sul sito, quindi sul computer. twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, posta wombat@insiberia.net, scriveteci. Diteci come vanno gli esami. Ho fatto troppo veloce, mi manca l'ossigeno, ora svengo. Appuntamenti della settimana. Abbiamo poco tempo. È un gran casino questo fine settimana, tanti perché cortei, ci sono un milione di cortei sparsi per l'Italia, nonché 1 milione di serate sparse per Firenze. Quindi sarò veloce, poi ognuno dovrà chiaramente andare a trovare le informazioni. Prendete una decisione. Allora, questa sera, penso alle 9, quindi adesso, assemblea organizzativa per il corteo no aeroporto al Next Emerson, corteo che avverrà sabato alle 14.30. Esatto, poi abbiamo Torino. A Sesto Fiorentino. Sì, ecco, ok. Invece poi abbiamo a Verona il corteo per quello che stanno combinando quei pazzi inquisitori. Fatevi cazzi. Cioè il nome della rosa sembra meno pesante da sopportare, ma vabbè. Quindi Verona corteo e poi abbiamo il corteo di Torino, chiaramente legato comunque alle grandi opere. Velocissimamente Firenze. Poi Firenze domenica, importante anche questo, il corteo per Orso, quindi da Refredi domenica pomeriggio dalle ore 15. Ci siamo incartate perché dobbiamo fare veloce, non abbiamo preso il cartaceo che avevamo preparato. Siamo incartate nel cartaceo, esatto, nel non cartaceo. Domenica alle ore 15 Piazza Leopoldo, corteo per Orso, da quale probabilmente faremo una diretta. Improvvisata ma pur sempre diretta, perché vogliamo andare a essere tutti presenti, quindi faremo una diretta veramente diretta, in diretta, lì per lì, come un gelato. Che altro? Venerdì, domani sera, mi sembra, al CSA Next Emerson, concerto post-garage rock and roll. Ok. E sabato nonché sera che la svolta Sound System è spaghettata alla polveriera, quindi andate prima a mangiarvi gli spaghetti, ascoltate la svolta e poi andate al Next Emerson. Esatto. Però sveglia presto perché il giorno dopo c'è il corteo al pomeriggio. Sabato sera mi sembra sempre al Next Emerson, serata hip hop con DJ Liugi. E sabato è la serata, la serata dell'hip hop totale generale, esatto. Perché c'è sia al Next Emerson che alla polveriera. Diversi quindi orari, quindi si può fare prima in polveriera e poi potete Next fare Emerson, un giro nel centro e città e tornano nella periferia bellissima e verdeggiante. Sì, grande giornata hip hop. Basta, ho finito il fiato, le energie, quindi ci lasciamo così con un altro minuto e mezzo che male non fa, sempre perché siamo l'argomento merita, i popper MC Fiorentino, per ricordarci che comunque esatto, anche Firenze filtro, ha le sue belle perle, fasci appesi, e visto che insomma la settimana è stata calda, ci sta. È stata calda e soddisfacente. Sì. Perciò non ci resta che dirvi di guardare nel sito il palinsesto e questa volta vi arrangerete da voi, perché non vi dirò più nient'altro. Buonasera a tutti, salutare. Eravamo in diretta, era la diretta del giovedì alle ore 20. E se ci riascolterete chissà quando, chissà che ora, chissà che ora sarà. Oibò. Oibò a tutti. Ciao ciao, a giovedì prossimo. Filtro Foltri, Firenze. Noise Makers. Sì. Filtro Foltri. Senti un po'. Senti un po'. Odio i fascisti, i razzisti, i leghisti come boss. Se sono inutili, stupidi, verdi come rospi. Mentalità da centro sociale, quartiere popolare. Dalla parte di chi ha la forza di lottare contro questi bastardi. Infami e codardi come tutti quanti. In 10 coi guanti, c'è da vergognarsi. Vieni, uno contro uno, ti attacco contro il muro. Schiavi del governo, andate tutti a fare in culo. Per voi ho falce e martello, vinculo sul più bello. A testa in giù come Benicio. Adesso l'hai capito, c'è un solo nemico, non fartelo amico. E gira alla larga da queste persone, canna in bocca e pugno al cielo, pronti per la rivoluzione. Sì, for my people, è così, bella psycho, Gia, Firenze Lucca, Gia, Filtro Foltri, Firenze, Fire.